un settore che è molto più dotato di giovani che altri settori produttivi del nostro paese, circa il doppio ci sono. E straordinariamente anche le imprese, le nuove imprese, soprattutto nei settori innovativi, hanno circa il 15% hanno giovani alla testa, cioè giovani al di sotto dei 30 anni, e quindi avere il 15% di giovani come titolari di impresa è chiaramente una ricchezza, nel senso del ricambio generazionale delle aziende, soprattutto nei settori innovativi. Una ricchezza che bisogna saper sfruttare, bisogna imparare a sfruttare anche meglio. Quali potrebbero essere le chiavi? Si parlava per esempio di semplificazione. Diciamo, noi abbiamo, io credo, non dobbiamo considerare i giovani come un settore, diciamo, sfortunato, una parte di settore sfortunata da sostenere, perché altrimenti non vanno da nessuna parte. I giovani sono dotati delle migliori energie fisiche e mentali adeguate al momento in cui stanno vivendo. Dovremmo considerarli come una grande opportunità per agganciare una ripresa, nel senso che sono capaci e sono propensi per loro natura alla flessibilità e all'innovazione. Quindi io credo che questo, che invece non riesce con personale maturo, questa flessibilità e questa disponibilità, io credo che questo sia un driver importante di uscita dalla situazione di stagnazione che c'è adesso. E quindi dobbiamo fare di tutto per creare condizioni al contorno in modo tale che le potenzialità dei giovani vengano espresse integralmente. Per fare questo dobbiamo sostanzialmente agire su tre punti: le risorse, l'organizzazione del settore e poi anche i contenuti dell'assistenza e della formazione in appoggio. Le risorse non è vero che non ci sono, le risorse in questo momento nel nostro paese ce ne sono tantissime, ma sono sprecate in una miriade di un complesso di attività che nulla ha a che vedere con la utilità per il paese. Mi riferisco alle straordinarie somme che mangia il pubblico. 53% del PIL va per l'automantenimento senza possibilità di investimento. Questa è una cosa di una gravità mostruosa. E quindi bisogna fare in modo che tagli enormi alla politica, all'apparato burocratico amministrativo, a una semplificazione della gestione del paese. Oggi, se dovessimo progettare un paese, ma che lo progettiamo così, cioè con gradi amministrativi a livello centrale, regionale, provinciale, comunale, addirittura di quartiere, e poi, cioè, la coesione sociale è una cosa, lo spreco è un'altra, 33.000 enti intermedi, cioè io dico, siamo veramente le privatizzazioni che vengono fatte al 50%, perché Fintecna sta facendo privatizzazione al 50% per rimanere nel gioco, nel giro. Le privatizzazioni devono essere totali, le liberalizzazioni devono essere fatte in maniera totale. È ciò che nessuno ha il coraggio di fare, perché sostanzialmente si sta tenendo dietro ai veti della singola lobby, e siccome di lobby in questo anno, in questi 50 anni dopo il boom, diciamo, economico degli anni 60, si sono moltiplicate, surmoltiplicate, sono diventate migliaia le lobby anche a livello capillari, è chiaro che se noi andiamo dietro a questo non facciamo mai nulla. E questa ricerca smodata del consenso a cui è costretta la politica ogni anno, perché una volta ci sono le elezioni politiche, poi quelle amministrative regionali, poi quelle locali, poi quelle europee, cioè qua non si può continuare a contrabbandare per coesione sociale un guazzabuglio, un groviglio istituzionale da cui non ci si districa più. Poi dopo, per quanto riguarda il nostro settore, il sistema della bilateralità è una cosa importantissima, ma se lo consideriamo come un sistema dove mettere posti, dove moltiplicare i posti in consigli di amministrazione, cioè noi oggi dobbiamo semplificare, fare enti regionali, ma anche le impalcature contrattuali, non possiamo avere in edilizia 5 contratti nazionali e 110 integrativi provinciali, cioè qua basterebbe un contratto nazionale unico, al limite con 20 integrativi regionali, ma voglio dire, punto e basta. Non avere 500 contratti, ne basta una ventina, o forse ne basta uno solo. e gli enti devono essere accorpati, non bisogna moltiplicare i posti in consiglio di amministrazione, bisogna sinergicamente non trovare nuovi recintini in cui fare il proprio comodo, bisogna metterli al servizio e quindi accorparli, togliere i recinti. La formazione, che ha fatto grandi passi in questi ultimi 2-3 anni a seguito del contratto del 2008, in cui si è riformata completamente, dandosi una riconversione totale e dandosi strumenti importantissimi come la borsa lavoro, come la banca dati, la formazione continua, che già conta 150.000 formati, non una sciocchezza, in appena 3 anni. Quindi è una cosa già importante che ha toccato praticamente il 20% del personale realmente dipendente, che però purtroppo non ha trovato. È ora che il sistema della formazione, dopo essersi data dei metodi e degli obiettivi, si dia anche dei contenuti aggiornati al momento per favorire l'innovazione nelle imprese e per i lavoratori. Innovazione per la quale i giovani imprenditori e lavoratori saranno l'anima e noi dobbiamo dargli un supporto. Questo è il senso dell'incontro di oggi. Lei ha parlato appunto adesso di giovani imprenditori, quindi lavoratori e imprenditori assieme come anima di un rilancio, così. E il tema del SAIE quest'anno è ricostruire, anche perché si arriva dopo un momento drammatico come quello del terremoto del maggio scorso. La ricostruzione in questo senso può essere anche il rilancio di questa nuova imprenditorialità e quindi passa anche dalla formazione, del lasciare via libera a questi giovani anche in queste aree, creandone un'opportunità di sviluppo economico. Oggi le aree disagiate sono quelle di L'Aquila e dell'Emilia Romagna. Io vengo dalla regione dell'Umbria, che ha appena finito la sua ricostruzione del disagio. Però non dobbiamo guardare così in maniera miope. Questo paese è tutto sismico, fortemente sismico. È solo un fatto statistico, diciamo, che contiamo sul fatto statistico che un terremoto distruttivo non si verifichi domani mattina a casa mia. Ma in effetti, se noi avessimo, e siamo in condizioni di subirlo, un terremoto distruttivo 8.9 come quello del Giappone, noi avremmo milioni di morti e avremmo che circa il 90% delle abitazioni entrerebbe fortemente in crisi, cioè crollato, distrutto o semidistrutto con un terremoto 8.9. Abbiamo visto che danni hanno fatto terremoti di scala 6, che sono 30.000 volte meno intensi di 8.9. Quindi noi dobbiamo pensare che il lavoro ce n'è da fare una marea, cioè l'adeguamento sismico di questo paese deve essere fatto delle case, dei posti di lavoro, delle infrastrutture. Se andiamo a fare una verifica sismica dei ponti e dei viadotti, ne chiudiamo più della metà. Io credo che un paese civile e moderno come il nostro deve smettere di sputtanare quattrini da tutte le parti per mantenere una classe politica parassitaria e una classe burocratica ancora più parassitaria e anzi, diciamo, dannosa, perché ha impostato un mondo di carta e, facendo perno su questo, comanda perché gestisce il perno della carta. Questo è un modo, dobbiamo ricentrare l'attenzione sul lavoro. Abbiamo creduto per 20 o 30 anni che la società era post-industriale, potevamo andare avanti con il terziario. Il terziario esiste nella misura in cui esiste un produttivo. Se non c'è produttivo, il terziario è parassitario. Noi dobbiamo smettere di creare incastellature parassitarie. Non ce lo possiamo permettere. Non è vero che non ci sono risorse. Le stiamo sprecando in questa maniera. Se questo significa creare le condizioni per sviluppare le energie positive che hanno i giovani. Una volta ho incontrato un ragazzo della Romagna a Kyoto. Ecco, e gli ho detto: come mai tu stai qua? Era di Cesena. Ho detto: guardi, mi interesso nelle telecomunicazioni, questa è una delle università più importanti di telecomunicazioni, sono venuto a specializzarmi qua. Dico: ma qui avrai dei problemi linguistico, inserimento, eccetera. Ho detto: guardi, non c'ho nessun problema, sono qui da pochi mesi, ho già ricevuto proposte per rimanere qui a lavorare. E dice: io non devo raccomandarmi a nessuno qua, sono giapponesi, non conosco nessuno, non conosco manco la lingua, però uno dei miei professori mi ha chiesto di rimanere con lui e quindi mi garantisce un posto stabile nella sua organizzazione. Ora io dico: Dovremmo cominciare a ragionare anche così, o no? Anche perché questi progetti, che spesso sono seguiti durante la fase di istruzione, no? Dai giovani, da noi io ho l'impressione che vengano considerati come un gioco di studenti, di ragazzi, mentre all'estero ci guardano seriamente. Se un progetto è valido, si realizza. Riporre al centro dell'attenzione il merito e il reale bisogno, perché noi dobbiamo anche pensare che c'è della gente che non è in grado di provvedere a se stessa. Non è che distribuendo 3 milioni di pensioni di invalidità noi facciamo un favore a un sacco di gente. Facciamo un gran torto a quel mezzo milione che invalido lo è davvero. Ecco, capito? Quindi ampliare il numero delle pensioni significa sputtanare, non è favorire quei 2,5 milioni che non ne avrebbero titolo. È sfavorire fortemente quei 500.000 che hanno un grande bisogno e che non gli può bastare a uno veramente invalido 700-800 euro al mese. Lo deve dividere con... Perché già ha avuto la sfortuna di essere invalido, non può vivere nemmeno allo stremo della condizione. Bisogna dargli tutto quello che gli serve. Noi dobbiamo focalizzare l'attenzione su una reale virtuosità dell'azione a tutti i livelli. Altrimenti la politica se ne deve andare a casa, le nostre lobby di interesse devono chiudere bottega, basta, deve avvenire così. Il problema è quanto tempo ci vorrà per scaricare tutto questo groviglio che abbiamo creato nel nome della coesione sociale. Gli intenti di partenza non erano marci. Cioè, quando è scoppiato il 68, poi le organizzazioni sindacali e datoriali si sono rafforzate, sono anche moltiplicate per difendere meglio possibile gli interessi. E questo è lecito e dà modo di trovare accordi. I contratti sono una funzione importante, però esiste una stagione per certe cose. Dopo bisogna superarla, bisogna andare avanti. Questo è il problema. L'occupazione deve essere una cosa seria. Il nostro sistema ha fatto la formazione per 32.000 lavoratori cosiddetti socialmente utili in Sicilia. Io mi sono vergognato di quello che ho visto. Cioè, questi qui non fanno niente. Allora dici, ma che vuoi buttarli in mezzo alla strada, se non altro gli diamo stipendio? Sì, diamoglielo per fare qualcosa. Perché gli dobbiamo dare 900 euro al mese, che sono un'umiliazione, per non fare niente? E nessuno sa dove si trovano. 32.000, sì, non 32, 32.000, un esercito, 1,6 miliardi all'anno bruciati senza far niente. Diamogli di più, ma per lavorare. Visto che stiamo spendendo i soldi, facciamoli lavorare, anche perché è educativo, anche perché è utile, anche perché è socialmente importante. Quando è che ci sintonizziamo su questa linea? Se non ci sintonizziamo su questa linea, non ci sarà spazio. I giovani sono puri, non nascono impuri. Quindi i miei figli vogliono trovare un mondo in cui misurarsi, in cui fare quello che è possibile, mica sono fenomeni, Però vorrebbero trovare un mondo aperto in cui infilarsi in qualche maniera. E raccogliere in base al merito, esatto. Per caso potrebbero avere dei privilegi perché magari qualcuno è in grado di garantirglieli, oppure per caso potrebbero non trovare minimamente posto. Questo non è possibile in un paese civile.